Guardi, io non desidero commentare per non alimentare la polemica, desidero solamente ricordare che quando la Tirrenia ha sospeso il collegamento quest'inverno Genova-Olbia, noi l'abbiamo sostituito immediatamente con una nave che portava una perdita di esercizio giornaliera di 80.000 euro, soltanto per la sensibilità di non interrompere i collegamenti Sardegna-Continente. Fare un'operazione di questo tipo per 3 mesi è un'operazione che comunque si chiuderà con una perdita di esercizio. Perdita di esercizio che bisognerebbe domandarsi chi andrà a coprire. Beh, i cittadini sardi, immagino, perché i soldi sono della regione Sardegna, ma lei ritiene che vi siano anche degli estremi per fare ricorso all'Europa? Ah, ma certamente, certamente, perché non possono essere usati soldi pubblici per un'operazione di questo genere. Senta, onorato, per concludere, come ne usciamo? Cioè, voi riuscite a trovare delle soluzioni? Oppure, me lo dica anche tranquillamente, se questi sono i vostri costi di esercizio, ci rassegniamo a sapere che i traghetti costeranno appunto tra il 40 e il 70, c'è chi dice arriva al 110, in alcuni picchi al 150%. Guardi, noi siamo aziende private, chiaramente la Mobi è un'azienda privata, noi non certamente possiamo chiudere un bilancio con una pesante perdita di esercizio, non possiamo chiudere tutti i bilanci. E sotto questo punto di vista abbiamo dei vincoli importanti che dobbiamo rispettare. Purtroppo in questa situazione, con questo livello di carburante, noi non possiamo fare diversamente. È stato più difficile rinunciare alla Coppa America o gestire questa vicenda? Questa è una domanda divertente, Dan, ma in entrambe c'è grande passione, perché io amo profondamente la Sardegna e mi piace vivere lì, e quindi mi crea molto più dolore questa situazione che la rinuncia a una gara sportiva.